Gentili colleghi all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM 236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Qui faccio io, siamo amici e paga chi ce ne ha di più. Pago io, è la vita che mi ha spinto un po' più su. Pago io, per un sentimento che non muore mai. Non c'è Dio che quantifichi l'affetto. Berlusconi di nuovo sotto indagine. Questa volta si tratta del Rubiter, sembra una commedia, sembra una telenovela infinita, una di quelle telenovele sudamericane, si chiama Rubiter. Corruzione in atti giudiziari, Parenzo, una cosina, no? Una roba minima. Anche per gli avvocati, questo Longo, il signor Ghedini. E anche diverse ragazze coinvolte. Insomma, avrebbe pagato con uno stipendio le testimoni di un processo, questo è il punto. Una di queste si chiama Aris Espinoza. Ma la vogliamo risentire nelle intercettazioni col Cavaliere o no? Secondo te? Ma che dici? Beh, è da sentire assolutamente. Amore. Cattivona. No, ma non sei cattivona, sei cattivississimo. Sì, non mi fanno più. Va bene, tesoro, ma sono in una guerra durissima. Quando vinco la guerra, poi ti vedo e approfitto delle tue bellissime labbra dolci. Sì, amore. Amore, ciao. Guarda, io ti volevo dire, amore. Dimmi. Ti volevo dire che io mi devo scrivere domani a scuola di recitazione, perché voglio fare recitazione. Sì. Lo sapevi, sì. E tu sei cattivo perché io ti sto chiamando. Allora va bene, allora avevi bisogno di qualcosa? Sì, amore, perché. Ecco, allora di quello che hai bisogno a Maristella, che va lei a prendere. Va bene, amore. Ciao amore, un bacio grosso, Ciao tesoro. Che telenovela che continua anche con il Rubiter. E noi, devo dire la verità, un po' ci divertiamo. Meno male che c'è il Rubiter. A proposito di Berlusconi, c'è il Conte Marzotto, l'anziano Conte Marzotto, incazzatissimo perché a Berlusconi non tolgono il cavalierato, il titolo di cavaliere. Ma d'altra parte, caro Parenzo, l'antipatia, l'avversione del signor Marzotto nei confronti di Berlusconi non è roba di oggi. Non è ma roba si può di... togliere il titolo? Beh, sì. Chi? Il Presidente della Repubblica? Chi? No, ma lasciamo perdere. Marzotto, Berlusconi ci ha sputtanato in giro per il mondo. Siamo amici. Berlusconi ci siamo anche sputtanati in Europa e nel mondo, insomma, voglio dire. Quindi proprio io credo che Berlusconi abbia demeritato moltissimo. Non c'è Dio che quantifichi l'affetto. Oh, Grillo è stato al Senato, Grillo è stato al Senato oggi, ha attaccato i giornalisti della Rai. Dicendo voi dovete stare attenti, molto attenti, molto attenti a come fate i servizi Rai, ditelo a quel signore lì che è il tuo datore di lavoro, state mistificando la realtà e noi siamo stufi, vabbè, le solite cose sui giornalisti, dovete stare molto attenti, vabbè, chi se ne frega. Sulla Rai poi ha ragione lui, però non si capisce perché non la vogliono privatizzare i grillini, che sono a favore, sembra, del proporzionale, non si sa quale proporzionale, però del proporzionale, come nella Prima Repubblica. Beh, d'altra parte il proporzionale serve a Grillo per contarsi, per dire siamo forti, per bloccare tutto e non assumersi responsabilità di governo, per non si vuole alleare con nessuno. Vabbè, che abbiamo su Grillo? Sentiamo, sembrate dei Walking Dead, degli uomini che ai giornalisti, vabbè, morti che camminano. Com'è che fa? Dei morti che camminano, sembrate morti che camminano. Ragazzi, ragazzi, sembrate Walking Dead. Walking Dead, mi fate paura. Lavoro. Lei non è il tuo la lavoro. Estera. Non è il tuo lavoro, anche il mafioso dice faccio il mio lavoro. No, io non sono il mafioso, mio lavoro. Faccio, no. Giornalista, faccio un domande, no, tu non sei, tu non sei un giornalista. Come no? Tu sei un impiegato per 10-20 euro che ti danno, ti sfruttano. È una guerra, siamo arrivati al dunque. O comandiamo noi, oppure ce ne andiamo a casa. Ma perché uno deve comandare per forza tutto lui? Cioè, o vinciamo, non c'è via di mezzo. Non c'è via di mezzo, è una guerra. Siamo arrivati al dunque. O gli italiani decidono che il nostro treno è il treno del cambiamento totale, via i partiti, democrazia dal basso, e si criticano le leggi dal basso, i parlamentari sono persone che entrano dentro, a disposizione di quelli fuori, cominciamo a vedere un'altra ottica di questo. Se voi non ci considerate così, sbagliate voi l'approccio con noi. Non mi moleste moschito, non mi moleste moschito, non mi moleste moschito. Why don't you go? Non mi moleste moschito. Intanto abbiamo scoperto la verità su Dudu, eh? Abbiamo scoperto la verità su Dudu. Dudu è sicuramente all'interno, non c'erano dubbi, eh? Però ho visto oggi, come? Ho visto oggi la prima foto, me l'ha mostrato un mio amico che fa il fotografo lì, me l'ha mandata via internet, via fax, via mail. Un mio amico fotografo mi ha mandato la prima foto di Dudu che scorazza dentro il centro benessere. Esatto, dentro il ma centro benessere. Ma non è possibile, ci hanno garantito che non potevano. Ci avevano garantito che non era possibile. Dudu è là dentro. Non mi moleste moschito. Ma posso portare un cane io? Perché so che Dudu forse viene. Io ho il mio. Posso portare. Nessuno ha messo animali. A Fufu non può venire quindi? Nessun animale ha messo. Ma non è che poi trovo Dudu però lì? La Maison di Relax non sono ammessi animali e bambini fino ai 12 anni. Anche questi bambini? Sono i vincoli. Animali e bambini anche? Fino ai 12 anni. Bugiardi! Bugiardi, Dudu è dentro, Berlusconi viene favorito. Vabbè, è una stupidaggine naturalmente, ragazzi, eh. Però abbiamo una grande ospite già collegata con noi. Però voglio farvi sentire il mitico Lucci sulla legge elettorale. Per esempio, sulla legge elettorale, sulla politica, sull'Italicum, su tutti. Senti cosa dice, per esempio a Crosetto, senti. I piccoli. A Crosetto, ammazza quanto sei grosso. Partiti. A me reggi, a me, se te zoppato, fammi vedere. Come quello. Okay. Di Crosetto. Siete come i pidocchi che c'hanno la tosse. Ma perché allora rompete i coglioni? Ma infatti non li rompo io. Pongono condizioni. Voi ci avete il 2% a contare il cazzo. Pur non essendo contrari. Io sottoscrivo la volta. Sottoscrive, vabbè. Mi raccomando, non rompe i coglioni. Per la prima volta la zanzara, cari ascoltatori, caro Parenzo, una showgirl amica della nostra amica, tutti amici siamo, Maristel Polanco, Aris Espinosa, buonasera. Buonasera, buonasera. Come stai, carissima, come Aris. Stai? Dai, si va avanti. Si va avanti, nonostante quello che è arrivato oggi, ma sei indagata pure tu in questa vicenda di Berlusconi, se non sbaglio, no? Diciamo che non sono informata, mi sono informata appunto tramite giornalisti e giornali, ma non. E che ti hanno detto? Che ti hanno detto? Sei, che sei indagata pure tu? Vabbè, ma non c'è, guarda, in Italia sono tutti indagati, per cui figuriamoci. Non lo so, non si sa. Non si sa, non, beh, si, non sa. Si sa. Senti una cosa, ma ho letto da qualche parte, però tu sicuramente me lo confermerai, che la questione dei soldi mensili, che tu hai detto in processo, non solo te, durante il processo, in uno dei processi sulle vicende di Arcore, sono stati interrotti, cioè tu non ricevi più questi 2.500 euro mensili, non solo te, no. Naturalmente. Diciamo che io appunto mi sono documentata questa mania tramite internet, ho visto queste cose qua. Beh. Devo anche verificare, non ne so nulla, insomma. No, ma scusa, no, ma riceve i soldi? Se riceve ancora i soldi oppure no? Non saprà Diciamo che sappiamo che è un momento in cui lui comunque ci ha sempre dato una mano. Certo. E mi ha sempre dato una mano, al di là di tutto, dato appunto la reputazione, nonché. Perché non lavoravi più, no? Sì, non ci facevano appunto più lavorare. Certo. Eccetera, e lui comunque l'ha anche dichiarato, non è una cosa che ha fatto. No, assolutamente. Aiuta, assolutamente. Ecco, pertanto diciamo che sono in verifica. Sì, sono in ma verifica. In verifica da quando? No, ma non, è vero o no che questi soldi mensili non arrivano più? Perché ormai questo sembra accertato, ce lo confermi che questi soldi mensili non arrivano più? Diciamo che secondo me sì? Dovrei un attimino verificare, perché comunque anche io me ne sono accorta stamattina su internet, su quei giornalisti, insomma. No, ma come te ne sei accorta? Tu la controllerai il conto corrente? Arrivano 2500 euro o non arrivano più? No, io non è che voglio insistere, però siccome si tratta... Sì, no, certo, diciamo che in questo momento sicuramente se è stata una cosa detta da lui, probabilmente è una cosa vera. No, non è stata detta da lui questa cosa qui, si è scritto, dunque a te non arrivano più 2500 euro, corretto? Hanno scritto, vabbè, ma sei tu che controlli il conto? Hanno scritto. No, non so chi l'ha scritto, e questo è il punto. No, ma però, al di là di chi scrive, lei saprà questo flusso di cassa, cioè, se uno c'è riceve o non i c'è. Soldi. Io lo so quando uno non mi paga, lei lo saprà, no? No, ma noi lo diciamo scherzosamente. Certo. L'ultimo assegno bonifico di 2500 euro, lei quando l'ha ricevuto? Ma sa che... Non saprei dirgli, nel senso che comunque sia, lui mi ha dato una mano per un periodo, ma poi non è che il periodo è stato lunghissimo. Ah, appunto, cioè quando è che è finito? Quando è che lei ha... Non, da quando esattamente è che... non so la data precisa. Però oggi non riceve più i 2500 euro? Oggi diciamo che l'aiuto, diciamo, è stato un po'... È stato un po'? Come dire, sì, in base a queste cose qua che sono successe, che comunque sì, certo. Bene, probabilmente è stato chiuso. Ci sarà un limite, insomma, ci sarà un'interruzione. Qualcosa. Un'interruzione. Sì, un'interruzione, certo. Senta, ma qualcuno gliel'ha detto? Ha chiamato qualcuno che ha detto: no, guarda, non possiamo più continuare a dare questi soldi? No, nessuno mi ha. Nessuno ha chiamato. Ma non è un interrogatorio questo, non abbia paura, cioè non è che sono cose segrete. Sì, no, certo. Cercavo un attimino di capire le domande. No, ma la domanda è molto semplice. Siccome anche lei ha ammesso di ricevere perché non può più lavorare, perché un indennizzo, diciamo. Ecco, è successo quello che è successo: 2500 euro al mese da Berlusconi, più forse altri regali. Allora la cosa curiosa è sapere se questo flusso di denaro che c'è stato, che per carità sarà tutto legittimo, anzi, sicuramente è tutto legittimo, ognuno può regalare quello che vuole, al di là della questione della corruzione in atti giudiziari. Ecco, la cosa curiosa da capire è questi denari. Lei li riceve ancora, sì o no? Siccome dice... Sicuramente le cose sono cambiate, dato che comunque qualsiasi cosa che fa lui viene vista come una cosa brutta, persino quando la fa alla luce del sole. Pertanto sicuramente le cose sono cambiate. Da quando sono cambiate? Cioè, da quando è che non riceve più questi soldi? Precisamente, come gli ho detto, non ricordo. Da due mesi, da tre mesi, da gennaio, da dicembre. Vabbè, poi non mi metto più a fare il PM. Sicuramente dall'ultima volta che l'ho dichiarato, insomma. Dall'ultima volta, e quando era? Da quando è scoppiato lei? Il casino? Cioè dall'ultima, da quando lei è andata in tribunale a dichiarare questa cosa, lei non riceve più un euro? Dico, non mi ricordo la data precisa. Se lo ricordassi, cioè non mi ricordo. Comunque lei oggi non riceve più soldi. Niente. Comunque, diciamo che le cose sono cambiate. Le cose sono cambiate. E le dispiace molto questa cosa? Sì, mi dispiace, perché comunque non solo le cose sono cambiate, ma andiamo sempre avanti contro qualcosa che, insomma, così continuativo, ripetitivo, e qualsiasi cosa, soprattutto qualsiasi cosa viene fatta da lui, viene vista come una cosa fatta male. E adesso lei come campa? Io adesso... È difficile, è in difficoltà? Sì. Diciamo che ultimamente mi sono impegnata con la mia collega Maristel a fare questo album. Però la vita è complicata da questo, cioè, senza questi soldi qua. Cioè... Certamente è difficile per noi, come si dice, riprendere quello che era una è volta difficile, al lavoro. È difficile, diciamo, tutte le cose che sono state dette. Certo. Cioè, si può dire che lei è in difficoltà economiche? Si può dire sicuramente che le cose sono cambiate. Sono cambiate. Sei ancora a casa, Emo? Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Ma è incredibile come il Porcellum andava benissimo, no? Poi adesso alcuni partiti, siccome sono evidentemente penalizzati da questa legge, io non do giudizi, legge buona, legge cattiva, italicum o non italicum, sparano a zero contro la legge. Chi spara contro una legge elettorale, la maggior parte delle volte, soprattutto i partiti politici, è sempre perché questa legge li penalizza. Certo. Ma mettere d'accordo tutti, cari amici, mettere d'accordo tutti è impossibile. Quando si fa una legge elettorale si scontenta sempre qualcuno, per esempio la Russa, Fratelli d'Italia, il quale ha approvato il Porcellum, però dice che adesso questa roba qui nuova è una troiata. Insomma, secondo lei questo sistema elettorale è più porcata del Porcellum che c'era prima, mi pare di capire. È una troiata più che una porcata, per cui siamo in fascia protetta, mi raccomando, cerchi di stare con le parole. La troiata, ecco, è assolutamente. Però insomma, mi pare di capire che non vi piace. Vabbè, Pietro ha detto una troiata, non è che ha detto chissà che. Dice, stiamo al mattino. È sempre con noi Aris e Spinosa, non sia in soggezione, signor Spinosa. Non ma sono... Spinosa, scusi, non sono il pubblico ministero. Ma lei è qua. Parente di Spinosa, il filosofo, discende da quella. Ma che c'entra? No, quella... Ma la signora Spinosa è dominicana, che c'entra? Ah, Spinoza? No, perché quella è davanti. Mamma pensavo mia. Fosse parente la di quel grande. No, dai, parente del filosofo e Spinosa. Spinosa, niente. Vabbè. Stai zitto, dai. Showgirl, protagonista delle serate cosiddette Bunga Bunga, anche se lei in tribunale ha sempre detto, signora Spinosa, vero che non ha mai visto scene di sesso, o sbaglio? Ma quello che ho detto in tribunale, diciamo che l'ho detto in tribunale, poi ovviamente poi? Non lo so, cioè nel senso se dovessi ritornare... Sì. Vi dico le stesse cose che ha detto. Ah no, perché sembrava che lei dicesse una cosa che ho detto in tribunale, una cosa la verità. Vi sembrava, eh? Ci sembrava. No, ma scusi, ma lei adesso non ha visto nulla, un bacettino, un palpeggiamento, una toccatina, niente. Niente. Pronto? Diciamo che comunque se è una festa, diciamo che ti diverti, no? Ti diverti? Beh, certo. Tanti modi di divertirsi, però. Ci sono tanti modi di divertirsi, però, eh. Ma insomma, lei... Si balla, si canta, insomma. Si, balla, si fa il trenino. Però, scusi... Trenino si fa o no? Da qualche intercettazione sembra che lei adesso gliel'avranno chiesto 1000 volte, 1500 volte, eccetera, eccetera. Sì, lo so, sembra che lei abbia fatto anche lei abbia fatto sesso con Berlusconi. Le labbra, le cose. È vero o no? Ci dica per l'ultima volta, guardi, assicuro... Io lo domando proprio per l'ultima volta. Ma e quello sarebbe una cosa mia personale, se no, non lo direi. Non lo direbbe, però, non lo, però potrebbe essere. Ma non lo ricorda. Ma. Ma se l'è dimenticato, dice lei, una cosa che non era indimenticabile. Non è stata una cosa indimenticabile. Ma stavamo parlando prima, insomma, come sto facendo adesso a riprendere un po' la mia vita in mano. Ma scusi un attimo, signora Spinosa, ma lei si sente un po' abbandonata da Berlusconi? Sì. Ma no, abbandonata no, non mi sento. Però no, non è sento, più. Mi sento un po', diciamo, come dire, sento che sia la mia immagine che di qualcun altro, insomma, sì, sia proprio messa a terra. Però voglio dire, si sente un po' il fatto che questi soldi, non, da ci... parte, questi soldi lasciata, non ci sono insomma, più. Si sente un po' accantonata, o sbaglio? Ma non lo so, è tutto da verificare. Ma come da verificare? Rimango in attesa, magari lo dico la prossima volta. Ah, magari dice, magari ritorna a pagare, dice lei, no? Magari ritorna a pagare. Sì, anche. Vabbè, chissà, no? La speranza non muore mai, come si però dice. Però bei no? tempi quelli delle feste, questo si può dire almeno, no? Bei tempi quelli. Bellissimi tempi. Sempre allegri, contenti. Sempre allegri, contenti. Contenti, fare trenini, cose. Ma perché trenini? No, perché trenino cosa c'è in di effetti, male? Perché i trenini? Ma non ho capito. Perché il trenino è meraviglioso. Papà, ma le labbra di Berlusconi perché erano dolci? Scusi, quando lei l'ha detto, perché erano... Cioè, erano davvero così... Non l'ho detto mica io. Sì, come no? Mi sembra di sì. E perché lei era cattivona? Scusi, perché Berlusconi diceva cattivona a lei? No, questa è una curiosità che ho sempre avuto nella vita. Ah, sì? Beh, io glielo dicevo a lui, poi lui ha cominciato a dirlo a me. E alla fine ci dicevamo cattivoni a vicenda. Che bello. Che bello, che cosa. Ce lo dica anche a noi. Ma le dispiace? Come? In amicizia, ovviamente. Beh, cioè, assolutamente, per carità. Scusi un attimo, ma... non l'ha più visto poi? Da quanto tempo è che non lo vede? Sto casino del processo, casino. È un po', diciamo che appunto, dato le circostanze, sì, un po' di tempo, sì. Ma le manca un po'? Sì, sì, mi manca sempre, ovviamente. Mi manca, è simpatico. È una persona favolosa. Favolosa, eh. Poi anche Ragioniere Spinelli è favoloso. O no? Eh? O no? È una persona per bene. Sì, beh, preciso, no, preciso, preciso, signor Spinelli, ogni ha mese. Sempre, ha sempre pagato in modo regolare? Ma io, che io sappia, è sempre stato preciso, è sempre stato preciso, no? Giusto? No, non ho detto nulla, insomma. Non ha detto nulla, vabbè. Lo dite voi. Vabbè, comunque Berlusconi l'ha anche regalato dei corsi, mi sembra, no? Non so che di cosa, teatro, no, dei corsi, no? Forse anche di recitazione. No, si è occupato sempre, sì, di farmi studiare, sì, e certo. Sono molto grata. Anche al CEPU, no? Anche al CEPU, se non sbaglio. Scuola media, poi l'ha preso il diploma o no la scuola media? Sì, l'ha preso. Adesso si comincia l'università. Adesso inizia l'università, ah, addirittura. Molto bene. Beh, bene, in che cosa sei iscritta? In che facoltà? Psicologia. Psicologia. Ah, molto bene. È stupenda, cosa meravigliosa questa cosa qua. Una notizia bellissima. Scusate, ma lei ha mai conosciuto la signora Pascale? Sì, sì, l'ho conosciuta. Com'è? Che persona è? La conosco. Che persona è? Diciamo che è una ragazza normale. Normale, che è una ragazza normale. Ma si è stupito un po' che alla fine l'ha vista accanto a Silvio? No, no, non mi sono stupita, diciamo che... Ma secondo lei Berlusconi è innamorato? Così, lei le conosce... Innamorato? No, difficile. Dipende, tu, innamorato, può darsi. Però per lei è difficile che Berlusconi si innamori, che sia esclusivo nell'amore, o no? Ma fanno una bella coppietta, dai, no? Fanno... E che ne so io. Però un po' è invidiosa, visto, un po'? No, un po' invidiosa forse, no? No, no, invidiosa no, perché lui è un mio amico, lei ha un altro tipo di rapporto, insomma. Ah, sì. Certo. Che rapporto? Sì. Di amicizia. Ma le cose che il dicono... Il rapporto verso di lui è di amicizia, lei e lui, sì, bisogna capire. Ma questa passione per gli animali, questa passione per gli animali che ha scoperto recentemente, era, ce l'aveva già Berlusconi per il Dudù, eccetera, oppure no? No. Sì, a lui è una persona che gli sono sempre piaciuti gli animali. Sì, sì. Ah. Comunque, secondo lei è innamorato Berlusconi, da come vede, eh? Ma di chi? Della signora Pascale. Della signora Pascale. Ah, boh. Ho detto può darsi, ovviamente non sono dentro il suo cuore, non potrei mai capirlo. Beh, certo. Bah. Comunque... Voi che cosa pensate? Ma così sembra di sì. Sembra, insomma, di sì. Sembra che ma... si fidi moltissimo di questa signorina, di questa signora. Comunque, vale, signora Spinosa, signora Spinosa, secondo me i soldi, 2500 euro, non arrivano più. Mi sbaglio? Faccio sapere la prossima volta. Ma come, tanto lei l'ha detto, ha detto che il flusso si è interrotto. Si è interrotto il flusso. Vabbè, arrivederci. Arrivederci. Grazie. A lei un bacio, eh. Lei è sempre splendida. Grazie. In foto è meravigliosa, in radio non lo so. Mi raccomando, non rompe i coglioni. Una borsa con sulla foto e ci tengo molto perché la tengo come una reliquia, c'ho la foto di Parenzo sopra. Benvenuta nel mio spazio sotto il salice, salice, non stare lì così, mettiti comodo. Beh, non è male avere un senatore della Repubblica che porta sulla borsa la propria foto, Parenzo. Borsa di plastica. Sono cose da... Ma che, perché borsa di plastica, dai? Borsa di plastica, c'ha il plaid dentro, dai, su. Grillo sempre gentile nei confronti di Renzi, eh? Lebettino di Firenze è sentimentale, ma sentiamo. No, Lebettino di Firenze guarda, è sentimentale. Te lo ricordi chi lo... È Lebettino di Firenze. Adesso è Dorian Gray. Dorian Gray. Oh, Ingroia pare che in Sicilia abbia assunto 74 nuovi dipendenti, per quell'incarico che gli ha dato Crocetta, 74 nuovi dipendenti in Sicilia, signor Ingroia. Una cosa incredibile. Tra cui c'è il genero del boss mafioso Stefano Bontate. Vabbè. Grillo ancora di oggi a favore del proporzionale, anche se poi bisogna decidere come. Attacca tutti, dobbiamo governare noi, dobbiamo avere il 51%. Andiamo al voto con la legge elettorale della Corte Costituzionale, eccetera, eccetera, eccetera. Noi non ne facciamo giochi, io non posso parlare con della gente che vuole fare inceneritori, privatizzare l'acqua, privatizzare la scuola, privatizzare, che cosa facciamo? Non abbiamo niente in comune. Noi siamo stati eletti per questo, mandarli tutti a casa. E mandare a casa anche te che fai questa faccia qua. Ma perché? perché voleva andare a casa quel poveraccio che faceva domande, quello che fa le domande lì, poveraccio in senso positivo ovviamente, no? Cioè Lucci che se la prende, che se la prende col signor Piso dell'NCD, del nuovo centrodestra. Lucci che Mara maldeggia. Scusami Piso, ma sono so avvelenato. Sulla legge elettorale se ne può parlare da anni. Armate. Da anni, calmate. Ti vedo sovraccida. I piccoli partiti tremano. Sistema spagnolo maggioritario al 5%. Sempre... 5% siamo d'accordo. Te posso dire una cosa Piso, te posso dire una cosa. È fatto, è che vi state a caga sotto. Che fate alla fine da scureggia davanti al ventilatore. Sparite in 5 secondi. La scoreggia davanti al ventilatore. Poi a un certo punto incrocia la Boschi, non dove erano quelli dell'NCD naturalmente, la Maria Elena Boschi, quella che piace a tutti diciamo, anche se poi non dice niente ogni volta che parla. Comunque questa è la mia considerazione. Maria Elena Boschi, vacci tu a discutere con Berlusconi. Te voglio dire una cosa, tu sei un angioletto e stramaledetta. Io so anni che mi sono rotto li coglioni, te sta a sentire a parlare della legge elettorale. Non te prego. Solo tu immagino. Legge elettorale. Con Berlusca, secondo me, invece di mannacce Matteo Renzi, a discutere, facci te un po' scollatella, un po' così carina, te metti una bella gonnellina. Secondo me sta legge elettorale la famo subito, un 448. Che basta quello. Cioè, se tu gli dici a Berlù, dai, guarda un po' che collanina mi sono messo. Anche senza la gonna ce la facciamo lo stesso? Io ci voglio sperare. Ci riusciamo anche senza gonna. Con questa faccetta, però se ci vedi tu con Berlusca lo convinci meglio. Non ha tutti i torti, signor Lucci. Non ha tutti i torti. TG3, vediamo cosa ci regala questa sera mentre c'è Renzi, credo in diretta al TG3 Renzi ovunque però. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Legge elettorale in aula alla Camera dal 29 gennaio. Minoranza PD e nuovo centrodestra spingono sulle preferenze. Forza Italia, così salta tutto. Il Presidente del Consiglio rilancia sull'azione di governo. C'è un programma da realizzare, dice, su quello andiamo avanti. Prioritaria la lotta alla mafia. Grillo, la legge elettorale serve solo a fermarci, ma noi non facciamo accordi con nessuno. Dietro Renzi c'è il condannato Berlusconi a dettare la linea. Il segretario PD al TG3, riforme o la legislatura non ha senso. Legge elettorale, sia modifiche se tutti sono d'accordo. Un esecutivo Renzi c'è già Letta. Rubiter, parte la nuova inchiesta della Procura di Milano. Berlusconi indagato con i suoi legali per corruzione in atti giudiziari. Il Cavaliere dice, resto in campo. Saccomanni, con le poste via alle privatizzazioni. Domani il decreto. Scatta la sanatoria Equitalia per multe e tasse. Niente interessi, pagando entro febbraio. Electrolux, si discute sulla proposta degli industriali di tagliare gli stipendi per evitare la chiusura in Friuli dopo le polemiche tra Serracchiani e Zanonato. Non so se sia vero, credo di sì, però l'account, perché c'è quella roba azzurra accanto che ne certifica l'autenticità, no? L'account di Vespa su Twitter. Però la puntata di stasera è abbastanza incredibile, perché c'è scritto: siete innamorati di una persona che ha 30 anni più di voi? Stasera Porta a Porta è la vostra trasmissione. E vabbè, insomma, si parlerà di amori con due persone molto diverse come età, no? Con un'età distante. E vabbè, qui siamo nella normalità. Poi stai a sentire questa roba. Siete omosessuali? Avete cercato di diventare etero e non ci siete riusciti? Ma che vuol dire? Stasera mi spiega come fare, no? Non lo so, può darsi. Stasera Porta a Porta è fatta per voi. Cioè, ci saranno omosessuali che hanno tentato a un certo punto, non si sa come, attraverso delle lezioni, attraverso dei professori o attraverso delle cure. Psichiatri. Spero di no. Di diventare etero e non ci sono riusciti. Oppure delle esperienze di persone che erano dubbiose. Non lo so, comunque. Tra le curiosità di questa sera Porta a Porta, gentili popolo della Zanzara, c'è questo. Siete omosessuali, avete cercato di diventare etero e non ci siete riusciti? Ma intanto, ormai è tutto degradato. Persino Vespa parla di omosessuali. Vabbè. Comunque Giovanardi ha scatenato la guerra alle nutrie. Ora, va benissimo che uno può pensare che quando si rompono gli argini per le alluvioni, vabbè, diciamo che potrebbe essere anche colpa delle nutri che scavano i cunicoli, secondo me non è vero niente, comunque. Ma uno fa un'interpellanza in Parlamento. Quali iniziative intendono intraprendere il governo e il ministro dell'ambiente per garantire la sicurezza dei cittadini e il ripetersi di alluvioni come quelle di Modena? Ma come si fa a impedire le alluvioni a Modena? Beh, guarda, però meglio dichiarare guerra alle nutrie piuttosto a chi si fuma una canna. Questo, cioè, avanti così, Giovanardi. Ma come avanti occupati così? Occupati delle nutrie, no, dai, che su. Poi su tutto il resto ci pensiamo noi. Comunque, si occupi delle nutrie. Ma te lo nutrie. Ricordi l'altro che era scatenato contro le nutrie? Il professor Gentilini. L'ex sindaco di Treviso. Sì. Le nutrie, io ho detto che saranno la piaga d'Italia, come le piaghe d'Egitto. Ecco, quindi vanno eliminate tutte quante. Io ho cercato in tutte le maniere, ma ci sono gli animalisti che se le portano a letto, hai capito? Le adottano. Pensa in che mondo siamo. C'è l'aria nel letto. C'è anche un leghista che non so come si chiama, un deputato. Caon, mi dicono. Signor Caon. Il quale è scatenato, vuole portare in Parlamento la questione delle nutrie. Dice che bisogna ricominciare, bisogna autorizzare la caccia alle nutrie. Cioè gente che spara boom, contro le nutrie. Abbiamo appena depositato un progetto di legge, sì, per che la nutria sia cacciabile, perché, certo, sappiamo quanti problemi porta, sia a livello di malattie, tipo porta la leptospirosi e, sì, e crea quei famosi cunicoli che poi gli argini nel momento delle grosse piene cedono. Spariamo alle nutrie. Valeria da Verona, buonasera. Buonasera. Ma a me è venuto un commento prima quando sentivo la giovane intervistata così reticente a rispondere alle sue domande. Allora, sì, mi chiedevo, ma perché dobbiamo ascoltarcela? Io preferisco sentire le battute sulle nutrie a questo punto. Se vuole, spegne. Ma sì, lo se so. Se non le certo piace, che spegne. Vuole. Qual è il problema? Certo, ma non è un problema. Io ho solo detto che preferivo. Ho capito, ma se no, una. Non è che posso, certo, prevedere in anticipo quello che uno dice o non dice. Aveva un po' bene di paura la signorina ad ammettere che questo flusso di denaro, 2500 euro al mese, non arrivasse più. Certo, però allora. Mi chiedo perché ha accettato di parlare. Vabbè, è chiaro, uno se lo deve aspettare, no? Che la domanda che fa è su tutti i giornali. Immagino che uno si aspetti. Vabbè, ma perché adesso deve fare il processo alla signora Espinosa? Ma no, ma non è un processo, era soltanto, ma no, assolutamente, è soltanto che mi è venuto l'impulso di telefonare e sì, mi hanno risposto. Bene, Giorgio da Pisa, grazie Valeria, Giorgio da Pisa. Oh, ma mi sentite? Sì, sì. Allora, a parte il fatto che le nutrie a Roma negli anni 90 gli hanno sparato col beneplacito degli animalisti, non mi ricordo qual era l'amministrazione, comunque l'hanno fatte fuori parecchie. Poi? Voglio tornare indietro al discorso delle donnine di Berlusconi. Sì. Ma voi non vi ricordate, nell'anni della Cortina di Ferro, gli amici compagni andavano all'est europeo con le calze di nylon, valigie piene, per trombarsi tutte le donnine possibili? Beh, adesso, ma che vuol dire, Giorgio? Un attimo, fermo. L'ipocrisia è da tutte le parti, capito? Un attimo. Ciao cani, ciao bestie. Zanzare. Monellacci. In culina, in campagna e anche al mare. Giovanardi, oltre alle nutrie, sostiene anche che la maggioranza dei gay vota per il centrodestra. Le statistiche segrete di Giovanardi. Quanti sono questi omosessuali che votano Giovanardi, senatore? Ma la maggioranza, solitamente sempre la maggioranza. Cioè la maggioranza degli omosessuali vota Giovanardi? Non ho detto Giovanardi, voti i partiti in cui Giovanardi ha militato, sicuramente sì, sicuramente sì. Poi dice anche che i gay con le penne e le piume sono una minoranza. È stupenda questa cosa. I gay con le penne e con le piume. Ma non esistono i gay con le penne e con le piume. Sì, ogni tanto. Pride, vabbè, ma sì, ma non è che stanno tutto il giorno con penne le penne e con le piume. Poi non è che al gay pride ci sono solo quelli con le penne e le piume. Al gay pride c'è di tutto: quelli con le penne e le piume, quelli con le borchie, quelli con le nutrie in testa. Quelli con le nutrie in testa, quelli con gli animali sotto braccio, quelli col pisello di fuori. Anzi, quello no, non c'è quasi mai. No, quello no. Ho detto che quelli con le penne e con le piume sono una minoranza del mondo omosessuale, perché quelli, se gli piace andare con le penne e con le piume, fanno bene a farlo, però la maggioranza degli omosessuali ha uno stile di vita e un comportamento politico, ideologico, religioso. Lucio Dalla ha gli fatto i funerali in chiesa, era cattolico praticante. Aldo da Bologna, buonasera Aldo. Buonasera a voi. Allora, volevo solo farvi una domanda, visto che avete scherzato sulle nutrie, no? Sì. Ma non so, quando porta a spasso Parenzo, no, quando porta a spasso il cane, scusi. Sì, prego, prego. Andato lungo un argine a vedere l'effetto delle nutrie? Sì, guardi, so benissimo che le nutrie possono provocare dei danni, allora? No, posso provocare dei danni, ci scherzate perché era stato Giovanardi. Cioè, andateglielo a dire a quei poveracci che sono rimasti sotto 2 metri d'acqua. Sì, ho capito. Ma il Parlamento si deve occupare di questo, secondo lei? Non ma basta. Se non se ne occupano gli amministratori locali, chi cavolo se ne deve occupare? Ma se ne occupassero eventualmente i comuni, fare l'interpellanza in Parlamento. Eventualmente i comuni, ma non se ne sono occupati. Giovanardi viene eletto in quelle zone, sapete? No, ma ho capito, ma l'interpellanza parlamentare, l'interrogazione, quello che è sulle nutrie che distruggono gli argini, amico mio, su Aldo. Amico mio, ma se la nutria mi va a rompere l'argine e mi arriva l'acqua in casa, mi incazzo anche con Giovanardi. Ma quale nutria che rompe gli argini? Ma non sarà mica sempre colpa di ste nutrie? A me non me ne frega niente delle nutrie, per me le possono ammazzare tutte. Lungo un argine qui da noi, una volta. Ma le ammazzassero tutte, non mi interessa a me, non è questo il punto. Chiaramente non le interessa, deve sparare cazzate insieme a Parenzo di... Ma scusi, ma lei abita accanto a un argine? Qui abitiamo accanto a un argine, abitiamo nella pianura padana, tutti siamo accanto a un argine. Ma dipende. Sono più alti del terreno. E allora? Per cui, ma lei che cosa farebbe una nutria? Niente, gli sparerei. Ma, le nutrie. Ma ce l'ha il fucile? Ce l'ha il fucile o no? Purtroppo no, addirittura sono contro la caccia. Pensi che le nutrie qui da noi non esistevano, ce le hanno portate. Perché lei lo so. Le portate? Lo so, ma perché lei dice purtroppo? Perché sennò sparerebbe a qualcuno con quel fucile, magari a qualche politico. Ma che scherza, ma che ne so io. Col fucile, ma perché deve tirare fuori delle cazzate? Lei ha detto purtroppo non ce l'ho, e uno purtroppo no, perché io cosa? Purtroppo non ho la nutria, non ho il fucile per sparare alle nutrie. Ah, ho capito. Non vuol dire che io sparerei. Chi passa, ma chi è che le ha portate ste nutrie? Ma chi le ha portate ste cavoli di nutrie? Lo denunzi chi è stato a portarle? No. Chi è stato? Senta, lei sta dicendo la solita imbecillata. Ma lei ha detto che qualcuno ha portato le nutrie, c'è il complotto delle nutrie. Non tutti che l'ha portata, erano animali che erano stati presi per fare allevamento, per fare. Certo, questo è vero. Ignorante, Parenzo, sei ignorante, sei. Non sai nulla, non sai un cazzo. Mamma nutrie. Non sai niente, Parenzo, non sai un cazzo, dai. Ma non sai nulla, non sai un cazzo. Io dica che non sa nulla. Cioè, lei ovviamente deve fare in modo che io mi incazzi ancora di ma più. Ma no, ma non lo sa, non sa niente, non sa nemmeno. Non mi interessa delle nutrie e francamente trovo ridicolo che un senatore della Repubblica perda tempo per scrivere, ciclostilare, mandare ai funzionari della Camera. Sì, sì, questa è la procedura. Per delle nutrie. Affanculo le nutrie, non mi interessa. Ciclo scrive, si mette lì perché la procedura è lunga. Non è che uno va lì e prese la burocrazia, scrive: onorevoli colleghi, caro ministro dell'ambiente della nutria, vorrei sapere se è vero che la nutria che vive in provincia di Modena rompe gli argini. Vorrei sapere come lei intende di intervenire. Prende il foglio, lo ciclostila, lo dà al funzionario. Il funzionario la legge, dice: oh, è arrivata l'interrogazione di Giovanardi sulle nutrie. Aspetta che lo mettiamo nell'ordine del giorno. Conferenza dei capigruppo che si riuniscono oggi. Beh, non esagerare, c'è la discussione sulle nutrie. Ministro risponde, il ministro prende il foglio, lo vede, dice: oh, rispondo al Giovanardi sulle nutrie. Tu lo sai intanto che Renzi ha detto che se non passa l'Italicum, se non passa l'Italicum, cade il governo. Se non passa l'Italicum, cade il governo. E poi ha detto, un po' rimangiandosi quello che aveva detto la prima volta, che le modifiche sono possibili se c'è l'ok di tutti. Cioè, capito? Se tutti sono d'accordo. Dunque, non è che è blindata questa roba qua, eh? Non è blindata, assolutamente. La zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza. Che gira, che ronza, va zonzo tranquilla nella stanza. Francesco da Siena. Sì, buonasera Crociani, buonasera Lorenzo. Io vorrei intervenire sul tema della trasmissione, cioè quello degli omosessuali. Sì, ma non è il tema questo, non c'è mai stato sto tema. Ok, cioè, allora mi dica su cosa vuole. Ma no, ma lei può intervenire su quello che vuole, ma non è che c'è il tema degli omosessuali. Comunque, vabbè, dica. Ok, le do un ordine del giorno. Saluto omosessuali, però prima mi preme una cosa abbastanza importante. Cosa? Perché tempo addietro, mi ascolti, Luciani. Quando è intervenuto Toscani, Olivero Toscani, allora? Ha fatto una cosa abbastanza grave da parte vostra, forse inconsapevolmente, perché avete fatto passare la vicenda dei due Marò come se fossero colpevoli. Ma lui ha detto che lui ha detto che non si vuole battere per i Marò perché hanno ammazzato due persone e dunque secondo lui se sono colpevoli vanno puniti, punto. Sua scelta. Troppo viene detto, se noi avessimo ammazzato due indiani, cioè, avete fatto passare tacitamente come se fossero. Ma non abbiamo fatto passare nulla. Colpevoli quando sono totalmente innocenti. Ma meno che questo lo dice lei che sono innocenti, su dai, forza, andiamo avanti. Prove, dimostrato dall'evidenza delle prove, numero uno il calibro dei proiettili è totalmente diverso. Vabbè, non me ne frega niente adesso di fare il controprocesso su questa roba, che vuole dire? Non è in un bar a fare quattro chiacchiere a far passare Marò. Ma chi li fa passare? Sono innocenti, benissimo, ha ragione lei, sono innocenti. Poi? Proiettili sono orizzontali. Vabbè, mi ha rotto le scatole lei, ma mi ha rotto le scatole, mi ha rotto le, mi ha fatto due palle così, già. Vado a stare svegli per amare. Vado a stare svegli. Ragazzi, Vittorio Feltri, ciao Vittorio, come stai? Ciao, buonasera, sto bene e spero, come si diceva una volta nelle lettere dei soldati, che anche voi stiate bene. Sì, stiamo molto bene, so che tra poco sarei impegnato nella solita battaglia. No, solita battaglia con le nutrie, no? No, che con le nutrie? Feltri se ne frega delle nutrie, da Santoro, da Santoro. No, le nutrie, figuriamoci. Preoccupato le nutrie. Delle nutrie, per carità. Senti, io ti faccio subito una domanda molto diretta, caro Vittorio. Ma quelle foto che abbiamo visto oggi dell'ex direttore, anzi no, dell'attuale direttore del TG4 e di Studio Aperto, signor Totti, hai visto con Berlusconi, no? Berlusconi in balcone, in tuta bianca. Adesso dimmela tutta, io lo so che tu sei sincero. Ma tu ti saresti mai messo con la tuta bianca in una clinica per dimagrire, caro Vittorio? Me lo immagino, telefono, Vittorio con la tuta che lo bianca. Lo chiamano al telefono. Chi c'è? Sono già abbastanza magro, non posso mettermi a fare queste buffonate, le evito con cura, non le ho mai fatte e spero di morire senza farle. Beh, questo mi pare una risposta, però scusami, adesso, signor Totti, potete evitare, perché io ho riflettuto quando ho visto queste immagini, no? Già mi ricordo, offerto il soggiorno lì, vabbè, ho capito, un posto però bellissimo, ho capito, ma uno che deve fare Dudu. Scusa, ma non è un po' imbarazzante, Vittorio, dimmela tutta, tu me lo puoi dire, non è un po' imbarazzante farsi vedere con la tuta bianca, cioè come se fosse no, sì, ma anche fosse stata rossa sarebbe stata ridicola. Io credo che il povero Totti in questa situazione non sappia più come comportarsi, perché probabilmente ha sbagliato inizialmente ad accettare di poter fare un mestiere diverso di quello che ha sempre fatto e anche fatto abbastanza bene, quantomeno riusciva a gestire addirittura due reti, cioè, però chissà perché c'è questo fascino della politica, cioè, e questo è stato l'errore. Quando Berlusconi poi t'acchiappa diventa difficile di vincolarsi. Secondo me Totti doveva essere il numero uno, adesso è già il numero 4 o 5 o forse. E alla fine è finito la clinica per dimagrire tutta bianca, dai, su, è una cosa, è una cosa incredibile. E alla fine, pur di non mollare l'osso, una tuta bianca, certo, fa un po' ridere, diciamo. Però io ho molta sì. Tenerezza nei confronti tenerezza. Di Totti tenerezza è un po' tenerezza è cattivo capire. Tenerezza è una cosa, però, è una cosa tremenda, però non è che l'ha messo in una stamberga, ma no, no, ma che c'entra, l'ha messo in un posto bellissimo, deve salutare dal balcone vestito di bianco. Vabbè, ma dai, su, ma uno che deve fare, deve ricostruire Forza Italia, le cose, prima deve ricostruire il fisico, no, ma non è che beh, sì, ma poi per questa pista perché uno deve essere per forza magro, Vittorio, scusami, ma che è grasso Toti? Ma no, io l'ho incontrato varie volte, ma io non ho mai badato, non è che ho molto interesse per la pinguidine maschile, no, non so se anche per te è così. No, in ogni caso, se uno mi dice taglia la barba, io non ce l'ho la barba, sì, ma deve dimagrire, aumentare tu lo mandi a fanculo. A me la prima cosa che mi viene in mente è mandarlo a fare il culo. Sto detto proprio con schifezza. No, ma anche, diciamo, no, ma questo anch'io, scusa, se uno mi dice tu, no, però vai bene, sei bravissimo, sei un grande oratore, fai politica in maniera eccezionale, però mi dovresti dimagrire un po', tagliare poi, i capelli, poi ti devi tagliare i capelli, poi devi farti vedere un pochino più abbronzato perché non va bene che sei troppo emaciato. Ma la mia prima risposta, scusa, ma amico mio, ma che devo fare? Cioè, ma sono... Si poteva anche dire Renzi ha messo su 5-6 kg negli ultimi 6 mesi, però ha vinto le primarie ed è diventato il numero uno del PD, quindi forse non è indispensabile qualche chilo, l'importante è guadagnare qualche voto. Però scusa un attimo, se te Berlusconi ti avesse detto vieni a fare una cura dimagrante in una clinica con me, tu come avresti risposto? No, io anni fa fui invitato da Berlusconi molto cortesemente ad andare addirittura con la mia famiglia in una delle ville in Sardegna, ma io ovviamente lo ringraziai, ero pensiero gentile, ma mi andai bene ad andare in Sardegna. E perché? Che male c'era, scusa? No, nessun male, però è chiaro che io non amo fare le vacanze e quando mi viene proprio voglia di fare le vacanze, ma come voglio io, non mi metto in una situazione imbarazzante come quella di essere ospite di quello che poi alla fine diventa il tuo padrone, è meglio evitarlo. Sì, quello è vero, poi diventa il padrone dei tuoi minuti, insomma, il padrone delle tue ore, il padrone non puoi fare niente, ma ti vuoi fumare una sigaretta e c'è quello che ti rompe i coglioni, uno si vuole fare un whisky. Ma come fai? 30 secondi, torniamo subito. Pubblicità. Con che banca da oggi puoi investire alla grande? Sapere di numeri, sai, non è più importante, perché adesso per te non c'è più solo un fondo, ma una selezione studiata, la più gialla del mondo. E allora muoviti ora, il mercato ti aspetta, rompi il tuo maialino e fai la scelta perfetta. Che banca! Nasce Risparmio Gestito Che Banca. Investire non è mai stato così rap. Fino al 30 giugno 2014 paghi solo la commissione di gestione. Foglio informativo e documento informativo su chebanca.it. Che banca? Scegli il giallo. La Zanzara. Non mi molesti moschito. Non mi molesti moschito. Non mi molesti moschito. Vuoi contico? Non mi molesti moschito. Siamo qui con Vittorio Feltri. Eccoci. Inutile presentarlo, caro Parenzo. Entrambi a Roma. Inutile. Siete entrambi a Roma, tu negli studi massimi della Zanzara. Sì, ma non diamo indicazioni ai nemici. No, Vittorio Feltri a Roma in procinto di recarsi nell'arena dal signor Santoro. Senti, ma ti stupi. Vabbè, però insomma, non vai al patibolo anche tu, vai a battagliare, no? Ma sì, ma che, basta. Però, vabbè, così per passare un po' di tempo. Però scusami, Vittorio, tu ti stupisci che Berlusconi sia stato indagato su questa storia del dei 2.500 euro al mese, la corruzione di testimoni? Beh, forse poteva. No, non sono stupito, perché la cosa già era nota, si sapeva che la procura stava preparando questo servizietto, per cui nessuno stupore. Posso essere d'accordo o non d'accordo, a parte che non ho visto gli atti, è difficile giudicare. Però certo è che insomma la situazione diventa sempre più complicata. Si poteva anche evitare questo stipendio mensile proprio ai testimoni del processo, si poteva anche. Cioè, diciamo che nel momento in cui è scoppiato, chiamiamolo scandalo, per così ci capiamo subito, avrei sospeso i pagamenti, perché sennò diventa facile sospettare che tu continui a pagare queste persone non tanto per averli ospiti la sera divertenti, ma anche per pararti le chiappe, e questo non sarà vero, però era meglio evitarlo. Diciamo, no? Che in America il pagamento dei testimoni, di quelli che vanno a testimoniare a tuo favore in un processo, beh, te mettono al gabbio subito. Cioè. Ma forse anche in Albania. Beh, sì. Cioè, se era meglio evitare. Io non dico che ci siano. Chissà chi l'ha consigliato. I suoi avvocati potevano consigliarlo meglio. Beh, mi sa di sì. Però, sai, noi siamo poveri comuni mortali, non siamo dentro le cose giuridiche, non possiamo capire. Allora, però, io vorrei tornare sulla questione di Toti e vorrei chiedere a Feltri questa cosa qui. Ha ragione Mentana quando dice che dovrebbe scegliere se continuare a fare il direttore di un telegiornale oppure dedicarsi alla politica? Cioè, c'è la solita cosa, il conflitto di interessi, cioè, oppure ha torto Mentana? No, io penso che Mentana dica una cosa ovvia, perché sono anche convinto che nel momento in cui Toti venisse incaricato di ricoprire un ruolo importante in politica, sì, automaticamente si dimetterebbe da direttore di Studio Aperto e di Rete 4. No? Sì. Non ho mai pensato che possa svolgere entrambe gli incarichi. Però ci vedi un po' di contraddizione in questa cosa? Lui è ancora direttore di Studio Aperto, TG4? Beh, lo è ancora perché non ha ricevuto un incarico ufficiale. Però rimane tra due settimane, non è più né direttore di televisione e non è un cacchio neanche in politica, c'è questo rischio. Io nei suoi panni avrei fatto la stessa cosa dal punto di vista tecnico. Dice, se tu mi garantisci uno stipendio pari a quello, o anche superiore, perché uno non cambia per andare a perdersi, allora ci sto, vengo, faccio il politico, altrimenti sto dove sono. Ma io penso che queste cose le abbia dette Toti, che è tutto meno che stupido. No, ma certo, poi figuriamoci, quando si tratta di quattrini non credo che gli sia presa la passione per la politica così. Beh, ma io non ci credo. Ma non ci credi, quando ci sono di mezzo i soldi siamo tutti interessati, nessuno lavora così per che cosa, per la gloria, ma non ci credo. Senti una cosa, ma tu se si andasse a votare adesso, Renzi lo voteresti? No, non lo voterei, perché Renzi secondo me va giudicato non tanto per le cose che ha detto, che le ha dette anche bene, in modo divertente, efficace, eccetera, ma vorrei vedere quali sono le cose che riesce a realizzare, cioè quali sono le cose che riesce a tradurre da belle chiacchiere in belle cose. Però, come fai tu a dire sì, lo voto? Ma è sulla strada giusta però, o no? Beh, è stato, secondo me, è apprezzabile il suo modo di fare, anche un po' diciamo disinvolto. Altrimenti qualcuno dice che assomiglia a Craxi da questo punto di vista. Ma non so, fisicamente non tanto. No, fisicamente no, sicuramente non tanto. Va bene, se magari assomigliasse a Craxi, perché Craxi, parliamoci chiaro, non è che fosse un fesso. No, per carità, grande decisionismo. Per il decisionismo. No, per il decisionismo dicono, assomiglia a Craxi, per ma il piglio. In un paese in cui non si riesce a far mai niente, perché ci sono mille problemi, mille ostacoli, veti incrociati, e se arriva uno che riesce a superare tutti questi intoppi, non può che avere l'applauso di tutti noi. Certo, se poi fa delle finate, beh, allora cambiamo il giudizio. Io però l'ho anche sentito dire che ci vuole la patrimoniale, ci vuole qui, ci vuole. Io non condivido queste cose. Allora voglio vedere, prima di giudicarlo, voglio vedere cosa fa, perché gli alberi si giudicano dai frutti e gli uomini si giudicano dalle opere. Io per ora le opere di Renzi non le ho visto. Però voglio dire, tra lui e uno che non è Berlusconi, diciamo, molti del centro che hanno votato storicamente il centrodestra voterebbero per Renzi, no? Secondo me una quota sicuramente può pensare, proviamo anche questo qui, un po' come disse Vittorio Emanuele III quando arrivò Mussolini, cioè, abbiamo provato tanti cretini, proviamo anche questo, cioè, poi le cose si sono complicate. Un po' sì. Senti una cosa, ma il libro che sta per fare Silvio, quello sul golpe, La mia verità, immagino che tu lo leggerai avidamente, no? Guarda, potrei già dirti che cosa scrive, per cui lo metti sul tavolino, lo metti sotto il tavolino per tenerlo fermo. Sappiamo, Berlusconi parla della guerra dei vent'anni, dice che tu non ci credi più a questa cosa del golpe dei magistrati, un po' non ci credi più, o ancora continui a crederci? No, ma che, cioè, anche i magistrati, cioè, ci sono magistrati e magistrati, lo sappiamo, che ci sia stato un atteggiamento particolarmente violento nei confronti di Berlusconi, quello è sotto gli occhi di tutti, però mi pare che anche Berlusconi non abbia fatto molto per evitare di aggravare la situazione, questo bisogna dirlo. Comunque ragazzi, qui le foto in bianco ricordano quelle mitiche, non so dove, le Bermuda di Berlusconi negli anni 90, Prediti, certo. Mutande, che correvano, no, non erano in mutande, erano in pantaloncini, c'era Gianni Letta, sì, praticamente in mutandoni, sì, c'erano Confalonieri, Gianni Letta, Previti, Previti, sì. No, forse Previti no, lo sai, dell'Utri. In quegli anni io ero nelle grazie di Berlusconi, ma come potrai notare dalle foto io non c'ero. Non c'eri, sì. Però non saresti stato bene direttore con quei calzoncini immagini bianchi. Feltri con maglietta bianca, camicia, calzoncini e bianchi, e la sigaretta a correre con le... Ma non è che... Guarda che hai rischiato parecchio, Vittorio. Se andavo sarebbe stato un disastro. Cioè, saresti stato per tutta la vita bollato, bollato lì. Ecco, ripeschiamo le foto. Mi prenderesti per il culo fino all'eternità. Meno male, l'hai scampata bella, diciamo. Sì, sì, l'ho scampata, sì. Mi è andata bene, va. Ti è andata bene, dai, ti è andata bene. Comunque, bisogna dire la verità. Forse ha ragione la Santanchè. Sentiamo cosa ci ho detto l'altro giorno. Che la mia più grande soddisfazione che nella mia vita mi sono concessa pochissimo, ma proprio pochissimo. Cioè, con quanti uomini è stata in tutto? Forse sarò un'arrogante o presuntuosa o avrò grande autostima di me, ma a me proprio mi fa godere non darlo. Ma... E questa è una, sentiamo l'altra. Io vorrei dare questo messaggio. 4. Alle ragazze e alle donne, che molto sia molto più godimento e soddisfazione a non darla. A non darla. Cioè, il consiglio alle giovani di oggi. Ma hai capito che dice la Santanchè, Vittorio? Sì, ma io non condivido, perché quando non sono riuscito a darlo mi sono molto incazzato. E quindi anche in questo campo c'è una divergenza tra me e la signora Santanchè. Però immaginiamoci un mondo. Scusa se ti interrompo. No, perché? Cioè, come dire, cioè, stasera io ti invito a cena e tu per godere di più non mangi niente, bevi solo un bicchiere di acqua non gassata. Ma sì, ma dai, ma poi un mondo popolato, ma sì, ma in un mondo popolato dalle regole della Santanchè sarebbe una tragedia inaudita, una cosa pazzesca. Va bene, ciao. Vabbè, ciao, a presto, ciao a tutti, grazie. Ciao. Pensa che allegria. Quando porta a spasso Parenzo, no, quando porta a spasso il cane, scusi, non è mai andato. Ma questo signore che ha chiamato prima pensa di essere stato spiritoso, chiamandoti cane, capito? Quando ti porto a spasso, ha detto, quando ti porto a spasso. Verifico in queste ore, popolo della Zanzara, popolo della radio, so che l'argomento vi appassiona, anzi probabilmente non ve ne frega una beniamata mazza. Noto in queste ore che la Lega è molto agitata sulla legge elettorale. Qualche giorno fa il segretario della Lega Salvini aveva detto: noi non ce ne frega niente la soglia di sbarramento, noi vogliamo i voti. Poi adesso ci hanno un po' ripensato. Per esempio, la Corea del Nord, cos'è che ha detto stamattina da Milan? Questa legge elettorale non c'è nemmeno in Corea del Nord, una cosa di questo tipo. Poi adesso ha detto: noi non siamo fessi, non siamo fessi. Ve l'ho detto, ci sarà sempre qualcuno scontento, ci sarà sempre qualcuno scontento. Però voglio la discussione parlamentare sulle nutrie, Io voglio la discussione parlamentare sulle nutrie, perché voglio registrarla tutta e mandarla. Non mi interessa. Giuseppe da Roma, buonasera. Pronto? Sì. Buonasera Cruciani. Come sta? Intanto le devo chiedere scusa a Cruciani, e io non la conoscevo di persona, di viso, ma l'ascoltavo sulla radio, mi ero fatto l'idea che fosse un po' secca, no? Sì, e che vuol dire secca? Scusi. Duro con i deboli, ma e che molle con i forti. Ma che cosa vuol dire zecca? Lo spieghi alla gente che ascolta? Cosa ha studiato lei? Ha studiato a Roma? Non nel suo linguaggio, ma lo so benissimo cosa vuol dire. Ma che stava nel collegio delle Carmelitane Scalze? Zecca a Roma si dice, diciamo, ragazzo che frequenta ambienti di sinistra. Vabbè, poi? Ok. Poi? In realtà ho visto recentemente una trasmissione sportiva dove era ospite e mi sono ricreduto. Ha una faccia tutt'altro che da zecca, un po' pariola, anzi un po' paracura, un po' raccomandata, ma senza offesa. Cioè, vabbè, poi dopo queste stronzate che ha detto bisogna aggiungere qualcosa? Stronzate, su, sono pareri, non può dire che una cosa che non le piace la chiama. Ma non è una cosa che non mi piace, non è una cosa così anche inutile volendo. Cioè, non inutile, essere. No, invece inutile. È importante far sapere che lei ce la faccia un po' da paracura, un po' pariolina. Bene, detto bellissimo. Detto questo, le consiglierei vivamente di aprire una trasmissione sportiva. Sì. Tanto non ci capisce un cazzo come per il giornalismo. Quindi sì, non c'è dubbio. Guarda, qui sono, diciamo, identico. Qui sono tutti professori. Qui sono tutti professori. Sono tutti professori qui di tutto. Bravissimo. Lei ci capisce di tutto invece, di politica e di calcio. Veramente, con tanta ammirazione la trasmissione ci piace molto. Bene, però, secondo me lei è un po' fascistello, Cruciani, diciamolo. Vabbè, Parenzo, te lo cucini tu questo imbecille oppure faccio io? Non c'è solo lei, possono essere in tanti. Cucinatelo allora, tu, quando dai. Quando chiama un notav, Cruciani, deve dire: no, tu sei stupido, non hai fatto un cazzo tutta la vita, mentre noi ci spaccavamo il culo sui libri o in caserma ad addestrarci da celerini, da poliziotti, da carabinieri, e siccome sei un cretino non parli, e lei glielo deve dire. Sì, vabbè. Poi chiama quello favorevole ai matrimoni gay. E lei deve dire: no, tu non parli, perché la natura è chiara e limpida nelle sue espressioni, anche sessuali, e qualsiasi coppia non etero che ha tutto il diritto di esistere. Ma qual è il senso del suo intervento? Ha mille maniere per tutelare legalmente il partner in caso di scomparsa e gli interessi. Ha perso completamente la brocca questo qua, vabbè. Poi, ha perso la brocca. Sì. Però, Cruciani, ma quanto ha fumato lei? Organizzare una spedizione per riprendersi. Ma quanto ha fumato lei? Altro capitolo. Fumo di tutto. Guardi. Immagino, immagino canne. Ho finito, Cruciani, non mi canne, per favore, canne o qualcos'altro? Educata, crack, canne, no. Cocaina, addirittura eroina? Allora, stiamo parlando di Marò. Ragazzi, bisogna riportarli a casa, organizziamo una spedizione, dopodiché li processiamo davanti alla corte militare italiana. Sunday, Monday, happy days. L'ho zittito così. Volete seguirmi fino a casa? Attento, due parole, la seguiamo fino a casa, non ci dice nulla. Questo è Cooperlo, un gesto molto forte. Renzi gli ha chiesto di votare contro e lei si è alzato. Arrivederci, state ostruendo la strada, temo. È sicuro. Però... intanto quella ha continuato a parlare, continua a parlare. Solo che noi le mandiamo l'ambulanza a prenderla. Buonasera. Buonasera, lo dice pure Cooperlo. Giova, è stato dirlo a Bersani. Sono andati. Ciao Pierre, abbiamo una notizia buona e una cattiva. La buona è che abbiamo una legge elettorale. E vai, porco boy, ragazzi. Lo sapevo che andava a finire così, perché a forza di zappare anche mica ci vengono i bicipiti, ragazzi. E la cattiva è che abbiamo la legge, diglielo, no. E la cattiva è che la legge l'abbiamo fatta con Ber, porco boy, con Bertinotti? No, Pierluigi, no, l'abbiamo fatta con Bergomi? No. Oh, vabbè ragazzi, chiamate Goldrake la legge tra la domanda lui, finale di Cacciullo era. Padova, Lecce, Bologna, Forlì. Mille fanali, allegro il cuore, via che va, la ballata del camionista. Gentili collega all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore patroncio lì. Continua la nostra grande inchiesta insieme ai camionisti italiani su cosa accade, su cosa succede nelle piazzole, nelle autostrade italiane, sesso a gogo sembra, io non ci credo, nonostante tutti i servizi, tutte esagerazioni, e molti però ci chiamano, molti camionisti, e li invito nuovamente a chiamare qui a Radio 24 per dirci che effettivamente c'è l'assalto dei froci nei confronti dei comunisti, una cosa già scoperta. Dei camionisti, non dei comunisti. Ho detto comunisti, veramente? L'assalto dei froci ai comunisti, no, dei camionisti. Alla fine fanno sesso con i camionisti, mi duole dirlo, però lo devo dire. Ecco, io devo essere sincero, ne conosco uno che mi diceva che lui si faceva dare 50 euro al colpo. Per fare che? O a 90 gradi oppure il cappottino di saliva, come si dice in italiano. Il cappottino di saliva, e lasciamo perdere cosa significa il cappottino di saliva. Guarda su Google. Vai su Google, cappottino di saliva. Roma Milano. L'altra volta su Modena eravamo in due autisti perché abbiamo fatto un viaggio lungo. Ma di notte? Sì, allora? era sulle, no, di notte, 9:30 così. Vabbè, 9:30. E si è avvicinato piano piano per far vedere con un cuscino sul lato del passeggero, sì, che aveva un uccello mega galattico. Addirittura. Cioè, faceva invidia veramente a qualsiasi scultore. Camionisti italiani, siamo qui, chiamateci, raccontateci le vostre drammatiche esperienze sulle autostrade italiane circondati da una marea di froci, però secondo me non è vero, eh. Andrea da Modena, eccoci qui. Buonasera, non sento mai, non metta questa voce così bassa, così annoiata, già così stanca, perché altrimenti mi viene l'angoscia, lo so. Che è successo? Pure lei si è fatto le canne. No, vi volevo solo dire, per il rispetto che nutro per voi, sì, che avete pisciato fuori sul discorso delle nutrie. Beh, quello adesso, perché? Perché quella è una cosa, un problema veramente serio, una volta che viene fatta, presa una direzione che sembra quella giusta da percorrere. Cioè abbattere, ammazzare tutte le nutrie. Sterminio delle nutrie. Ci avete scherzato sopra, secondo me. Ma no, ma noi non ci abbiamo sta per me se sparano a tutte le nutrie va benissimo, cioè se sterminiamo le nutrie è ottimo come cosa. Stupenda. Cioè se serve, se serve. Solo che questa roba qui non deve finire in Parlamento. Ha capito perché bisogna? Ma di che parliamo in Parlamento le nutrie? Ma lo risolva il Comune di Modena, lo risolva il comune di Fracazzo da Velletri, lo risolva il comune di Valguarnera Caro Pepe, lo risolva il comune di Velletri, allora. Ma non in Parlamento italiano, bisogna o no interporre il ministro dell'ambiente. Cosa cazzo può fare secondo lei? Scusi, che fa? Una delibera per sterminare le nutrie? Ma di che parliamo? Dai. Otelma, fermi! Hotel. Diretto. Cosa va a fare? Andiamo, andiamo in visita pastorale. Noi ci rechiamo una volta all'anno in India in visita pastorale. Sì. Abbiamo detto all'ambasciata d'Italia che se i Marò lo desiderano, noi siamo disponibili a recare loro conforto. Uno scambio? No, cioè, lo scambio no, loro rimangono. Uscirano voi e liberano loro. No. Se i Marò lo desiderano, noi non abbiamo problemi, visto che siamo già lì. Ma quanto sei buona che te vedo! Ma una di sinistra bella come il sole! Pefasta benedetta! Se noi diciamo di, voi rispondete vino! Di vino! Beh, tu hai capito cosa sta facendo il divino, cosa propone il divino. Cioè, Parenzo vuole andare in India per salvare i Marò! Definitivamente, poveretti, sono terribile, Cioè, stanno rischiando come non mai ora. Ci manca solo il signor Divino Telma in India ora. No, ma lui va sempre in India, come sai, ma no? Va sempre. Sì, è fisso in India, a un certo punto va sempre in India. Ma sì, è perché non rimane lì, in India, con le sue tutti i problemi che hanno, va lì e dice noi benediciamo tutti, lo prendono a pedate nel sedere, no? La gente c'ha fame lì, gira per le strade, poverissima, noi vi amiamo e vi benediciamo tutti. E gli indiani lo prendono a calcio del sedere, lo spogliano di quegli ornamenti che ha lì addosso e ci fanno delle giacche per dormire. Ho capito, ma la sua grande proposta è la mediazione del divino per i Marò. Beh, siamo al top, ragazzi, La mediazione del divino, cioè il divino vuole andare in India, va in India e propone all'ambasciata italiana. Sì. Chissà che non so se sia peggio per i Marò il divino Telma in India o prendersi come avvocato Taormina. Non so quale delle due possa essere più drammatico. Beh, anche Razzi per la pace in Corea non è male. No, anche Razzi, sì, sono tre cose che. Però io devo dire la verità. Chissà che non riesca il divino dove ha fallito lo Stato italiano. Non credo, Sì, questo è Vi salutiamo e benediciamo da Roma, amatissimi figli. È la zanzara capricciosa. Fate schifo. Sì, lasciatevelo dire. Rispettosa fa zazza. Massimo da Milano, eccoci qua. Anzi, no, c'è Andrea da Modena sulla questione delle nutrie. Che vuole ancora, Andrea? Andrea? Sono. Allora? Allora ti stavo dicendo che purtroppo la satira non è buona per qualsiasi argomento. Sì. Rispetto che ho per voi, che siete persone intelligenti, vi volevo solo informare che avete testato un po' una merda. Ma allora, qual è la merda che abbiamo sulle nutrie? Dai, su Andrea, non esagerare. Qual è la merda che avremmo pestato? Cosa abbiamo detto? Io. State dicendo una cosa che purtroppo sulla quale non siete ben informati. Sì. Purtroppo non ci sono altri sistemi che fare una bella tabula rasa delle nutrie. Non so se sarà sufficiente un'interrogazione, perché gli scaturiscono dei problemi, dei dissidi con, la Lega Ambiente, con tante altre figure, che fino adesso non c'è stato nessun altro argomento che abbiamo potuto votare. E da questo punto di vista, purtroppo, c'è della gente che adesso è veramente in grave difficoltà, causa le nutrie, per colpa delle nutrie. Non solo, quando fa l'interrogazione parlamentare suggerisco, se volete riferire a... L'interrogazione parlamentare non si può sentire, sulle nutrie non si può sentire. Andrea, lei tra l'altro parla troppo piano, non si sente poco. Massimo da Milano, dai. Massimo, quest'altro non si sente nemmeno. Massimo, e andiamo su, e andiamo. Che non cazzo? Non è mica colpa mia. Beh, no, ma invece è colpa sua, evidentemente. E che è colpa nostra? Senti un po', ce l'ho con quell'imbecille di Parenzo. Ti pareva? Eccolo qua. È mica colpa mia, adesso cerco di spiegargli qualcosa, anche se sentiamo, dottore. Avanti. A capirmi. Prego, dottore. Intanto, sì, non perdi occasione per dimostrare che non capisco un cazzo. Ma in sentiamo che senso? Scusi, genio della lampada, maestro, professore. Torniamo e magari pongo anche la frase conclusiva. Ma quale frase? La frase con la frase? Le nutrie. Non sono animali autoctoni italiani. No, autoctoni. Poi no, se guarda sul vocabolario. Lavora con Piero Angela, questo qui cosa fa? Quark. Poi? Quindi questi animali sono arrivati semplicemente da degli allevamenti dove Lega Ambiente, soprattutto quelli antivivisezione, eccetera, un bel giorno hanno deciso gli italiani in concomitanza le reti a tre allevamenti. le nutrie si sono sparse. Sì, però non abbiamo bisogno della storia delle nutrie noi qui, perché sennò ci facciamo due coglioni così. Per capire, due coglioni, beh, ogni tanto li fai spesso, quindi anche ho capito, ma cerco di evitare i danni, Cerchi di capire. Ma io decido io cosa fai, cosa illumino un pochettino. Vabbè, allora quindi queste nutrie non hanno nessun animale predatore. Quindi sono animali. Dunque, che bisogna fare? Ammazzarle? Sicuramente. Con che? Sparare, sparare, fare una retata? Che bisogna fare? Per forza, come vuoi me. Come vuoi fare? C'è qualche comune che ha provato, tipo la Parma, per esempio, hanno provato a mettere delle casse per raccoglierle, poi fargli l'eutanasia, cioè tutta una roba complessa. Fosse per lei, che farebbe? Una caccia, scatenerebbe la caccia alle nutre? Sarebbe straordinario, la caccia alle nutre con distribuzione dei fucili, qualcuno l'aveva detto. Cioè, tu pensa che la nutria è una pelliccia che viene usata in pelliceria, abbastanza pregiata. Ottimo, no? Tu dimmi se ti sembra normale che noi le dobbiamo importare. Noi in Italia le importiamo dall'Argentina e ultimamente dall'Ungheria. Va bene, grazie, Traffica. Quanto siete stupidi. Siete proprio insopportabili. Servi di Roma fuori. Vai, Parenzo. Dai, la caccia al rom. Come alla nutria. Servi di Roma fuori. Sempre attento al portafoglio. A Milano Lambrate hanno arrestato un rom. Stava rubando un portafoglio da passante. In realtà stava solo andando al lavoro, ma comunque un rom. Inseguilo per tutto Corso Sempione e portalo in questura, sempre comunque nel dubbio, perché lui comunque un rom. Pellegrin, uno dei conduttori di Radio Padania, sentite che dice su Fatto Quotidiano. Comunque, se leggete il fatto, siccome mi avete rotto i coglioni nel periodo più brutto, no, che ci sia stato, e chiedo scusa per il francesismo, i coglioni mi avete rotto, les pelotas mi avete rotto, avete telefonato, voi che eravate per l'Italia dei Valori, voi che eravate per Beppe Grillo, voi che eravate del Fatto Quotidiano, allora lettori del Fatto Quotidiano, spiegatemi perché il vostro cazzo di giornale non ha menzionato neanche in un rigo questa notizia, l'abrogazione del reato di clandestinità. Visto che il vostro idolo, quello che va soprattutto mi rivolgo alle signorine, vanno matte per i suoi occhi grigio-azzurri, cioè Marco Travaglio, si è più volte pronunciato contro il reato di clandestinità, quindi era una bella notizia da dare per lui. Voi che leggete questo giornale, prendete il telefono 02 66 20 35 29 e dite quel cazzo che pensate. Tutto per la libertà. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Senti questa ascoltatrice, Lisetta, sul Papa. È eccezionale questa. Bella e libera. Pronto. Buonasera, signor Pellegrin. Buonasera. Volevo dirle questo. Adesso capisco perché è stato eletto questo Papa, così aperto ai poveri. Lui vede solo poveri. Quest'uomo è il frutto del mondialismo, che vuole tutte le persone uguali, pensare le stesse cose, e un governo unico mondiale. La prova di quello che vi sto dicendo e che dico oggi, 22 gennaio, questo Papa ha partecipato a Davos al gruppo Bilderberg, dove sono riuniti tutti i grandi poteri economici del mondo. Quasi tutti sono massoni e non è andato, si è collegato in videoregistrazione. Vedere un Papa che parla con dei massoni mi è venuto davvero un colpo al cuore. Sì. Comunque questa è la realtà, il nostro Papa è un esponente del mondialismo massonico. Non c'è dubbio. La saluto, buonasera. Senti lui. Questa notizia io non la conosco, ma mi fido della signora Lisetta. Non ho modo... Non la verifico nemmeno. No, certo, no. Lisetta è fonte autorevole. Lisetta per buona, quindi ognuno buona. Si faccia le proprie opinioni. Pellegrin, amico mio, non il verifico Papa, la notizia. Il Papa massone al Bilderberg. Dai, ma io veramente è una cosa pazzesca, dai. Sali Padania. Sali Elisetta. Vai vedere. Luca, provincia di Venezia. Al migrante che entra in casa. Spara Lisetta al migrante che vedi passeggiare davanti a casa. Dai, sii più creativo, su Luca, provincia di Venezia. Pronto, eccomi qua. Allora io buonasera Cruzzani, 30 anni, 31 che faccio l'autista, io il camionista, e tutti sti gay come dicono io non li vedo. Finalmente Luca, finalmente, dai, diciamo che io faccio l'autista sin da bimbo perché mio papà si muove di camion. Sì. E tutti sti gay, cioè uno è gay anche giù dal camion, allora ci saranno i gay anche da noi, come su tutti i lavori, come su tutti. Beh, no, i camion, aspetta, no, ma lei che cosa dice, che non ha visto i camionisti gay? Saranno i camionisti gay, però no. No, ma qui stiamo parlando di un'altra cosa. La caccia al camionista da parte degli omosessuali esiste o non esiste sulle autostrade italiane? Esiste, certo che esiste. È quello. Perché se ti fermi di notte nelle aree di servizio c'è sempre qualcuno che ti guarda, che ti fa il cenno. Ma per perché? Carità. Ma lei, ma mi dà una spiegazione? Cioè, sì. Perché i camionisti sono cercano soldi? Perché sono più facili da approcciare? Perché? È quello che dico anch'io, io non vedo tutti i camionisti che colgono nelle cabine sti gay, io non vedo tutto sto... Non vede tutti sti camionisti froci, lei dice? Io no. Lei no, scusi, faccia un bel appello un attimo, ce l'ha il baracchino lì per chiamarci? No, su questo camion qua no, è una ditta molto grande, cambio spesso il camion, quindi... Ciao Luca, ciao, Andrea, provincia di Fermo, ecco un altro, vai, Andrea. Ecco qua, buonasera Gruciani, buonasera Parenzo, è un piacere. Dimmi, allora... Allora io volevo proporti, siccome vengo spesso a Milano col camion, io e un mio collega ti veniamo a prendere, vieni, fai da Milano fino a Riccione con noi, ti facciamo vedere tutto quello che succede sull'autostrada. Beh, devi fare un grande reportage, Davide, devi andare sul devi fare un grandissimo reportage. Ma non, ma mi la sembra... zanzara, la zanzara sul camion di Andrea, perché no? Ma sarebbe una cosa eccezionale. La zanzara in diretta dal camion di Andrea dalla provincia di Fermo, ti fai una bella Milano Cesena, ti fermi alle piazzole, eccetera. Ma piazzole? Ma vabbè, le piazzole, vedi, fai riporti, come si dice in gergo. E, fai il tuo lavoro di giornalista, di cronista, ma grande. Cruciani, dimmi che succede in queste aree di poi servizio? Come diceva il collega, per la strada ti passano avanti, ti fanno gli stop, però tu non ci sei, non ti fermi, oppure gli lampeggi anche tu, metti la freccia e ti fermi. Ma sulla piazzole c'è i camionisti, c'è i gay che entrano nelle cabine dei camionisti. E c'è pure delle coppie che ti affiancano con le luci della macchina interne accese, che vuole che ti trombi la moglie, e lui guarda mentre ti trombi la moglie. No, mi spieghi questa cosa che è molto interessante, questo racconto. Ma che drammatica, interessantissimo. Ci sono anche nelle piazzole, quando tu ti fermi a fare la sosta, ti bussano, arriva moglie e marito, il marito vuole che ti trombi la moglie e lui ti guarda. Beh, lei l'ha fatto? No. Beh, no, assolutamente, perché io non posso far salire il marito nella cabina, perché non conoscendo non so con chi vado a incontrarmi. Ho capito, Andrea. Su questo lui dice però è una questione di fiducia sostanzialmente. Cioè, allora, la cosa sarebbe questa: si affianca una coppia, giusto? Marito e moglie, compagni, quello anche che è. Anche sull'autostrada in movimento. Ma qui c'è un elemento in più. Hai visto tutta sta roba? Anche sull'autostrada in movimento, ti si affiancano mentre ti sorpassano con le luci accese. E la moglie che sta spesso e volentieri alla parte del passeggero ti fa un cenno con la testa se ci vuoi andare. Sì. Se tu gli dici di sì, si fermano nella piazzola. Se gli dici di no, vanno a trovare un altro camionista. Ho capito, ma e poi la cosa sarebbe che il camionista guarda, no, anzi, il camionista che fa? No. Il camionista si tromba la moglie e il marito guarda mentre i due stanno facendo sesso. Beh, siamo al top qui, siamo al top. Ma siamo al top. Cioè, questo ma capita ma questo spesso. Qua, questo qua è un altro elemento fondamentale. Cioè, abbiamo capito che sulle autostrade succedono certe cose. Poi c'è un elemento in più, ci racconta il signor Andrea, che è camionista, direi, no, di lunga data, o sbaglio, Andrea? Non molto, comunque camion e pullman a 10 anni. Vabbè, insomma, che frequento la 1 e sono sufficienti. Scusi, ma queste coppie di solito che lei vede, come sono? Che sono coppie giovani, sono coppie di tutto, cioè? No, abbastanza giovani. Abbastanza giovani, No, non l'ho viste mai una donna. Vabbè. Una coppia più avanti con l'età, sempre parliamo dai 30 ai 40 anni. Le grandi inchieste della zanzara che non riguardano l'Italicum, cari amici, la legge elettorale, Renzi che oggi dice che fa cadere tutto se non si approva la legge elettorale come dice lui o comunque quella che ha proposto, bensì quello che accade sull'autostrada italiana. Ma d'altra parte, signori miei, non è che la gente ci ascolta dentro casa o dentro le stanze segrete della politica italiana, ci ascolta in macchina, in autobus. C'è l'invasione dei froci. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Popola sul web, caro Parenzo, la storia che ci ha raccontato. La storia scherzosa, divertente, simpatica di Michela Biancofiore, che ha sfatato ormai una voce che si era diffusa, cioè di un Dudù omosessuale. Noi ci occupiamo di grandi storie, come sai, ci occupiamo di grandi reportage, ci occupiamo di grandi vicende umane, quella di Dudù comunque sempre sulle prime pagine. E risentiamola, che dire, ci ha provato con la sua cagnetta. Io ho usato un termine un po' più diretto, ha provato a ingropparsi la sua cagnetta. Si è accoppiato con Dudù o no? No, però c'è stato un tentativo. Cioè? Cioè? Dudù, da buon padre, da buon uomo di quella famiglia, insomma, visto che recentemente Paghi era in calore. E beh, oh, è la natura, eh. Almeno la natura tra maschio e femmina in Xacani, almeno quello, voglio dire. Sentite sull'erezione di Dudù, che dunque, secondo la Biancofiore, non sarebbe gay, anzi sarebbe uno sessualmente molto attivo, tanto da provarci con la cagnetta. Sono racconti che fra qualche anno vedremo e leggeremo, e direi con un certo, anche con una certa nostalgia, perché non ci saranno più, inevitabilmente, perché non ci sarà un altro Berlusconi, non ci sarà un altro Dudù, non ci sarà un'altra Pascale, non ci saranno più le oggettine che abbiamo intervistato prima, non ci sarà più questo mondo. Io non so se voi siete contenti, probabilmente qualcuno è contento che finisca questo mondo, io no, lo vorrei per sempre. È normale che ci provi, voglio dire, quella è femmina, pure figa, tra l'altro ci ha provato, vuol dire che il cane, ecco, vi rispondo così, il cane, vi posso assicurare che Dudù non è assolutamente gay, questo ve lo posso dire minimamente. O lei l'ha visto in erezione, diciamo. Orca. Orca, è con noi il grandissimo Guido Bagatta. Ciao Guido. Buonasera a tutti. Allora, che ci racconta una cosa fondamentale sulle nutrie. Anche lui ha una sua spesa. Sulla spesa che c'è, quella ha scritto un libro sulla spesa. L'hai comprato, Parenzo? No, ma che ha comprato. No. Me lo legge i libri sulla comunità ebraica, ma che deve leggere? Su tutto le leggo, ma me lo farò mandare dalla casa. Ma no, ma te lo devi comprare, vabbè, allora. No, è che le nutrie hanno invaso anche il laghetto a Milano 2, quello costruito da Berlusconi negli anni 70, sì. Diciamo il punto di vanto, che tra l'altro è ancora un punto di incontro in primavera. Perché viene tu la gente, abiti lì? Ma no, in primavera viene la gente a fare i picnic da fuori, non è una battuta. E passeggiando col mio bassotto c'è stato questo incontro tra bassotto e nutria, che peraltro sono anche abbastanza simili, e la nutria ha scambiato il mio bassotto per una nutria e c'è stato un attimino di tensione. Ma anche là pensano di abbattere le nutrie, di distruggere le nutrie. Non lo so, però è pieno zeppo di nutrie, tutta la zona anche di Lambrate è pieno zeppo di nutrie. Facciamo un'interrogazione parlamentare, dai, velocemente un'interrogazione parlamentare, su. Mario da Sassari. Buonasera, Cruciani. Sì. Ha avuto una richiesta. Sì. Signor David Parenzo, sì. Vogliamo chiamare a questo centro benessere e chiedere il perché? Bravo. Sì, questo è giusto. Questo è giusto. Bravo, sì. Parlamentare. No, bravo, questo è giusto. No, questo merita un'interrogazione questo parlamentare. Questo merita, no, adesso non esagero, parlamentare. Sai. Però l'altro giorno abbiamo provato a chiamare il centro dimagrimento là, Villa Vanda, no, Villa Vanda è quella no, di Gelli. No, Villa Vanda è quella di Gelli. Villa, non so come, e in realtà ci hanno detto che i cani... La chi maison... è questo? Ah, sì, Povia. Pronto? Eccoci qui, caro Povia! Ah, amico mio. Hai sparato un'altra cazzata delle tue, adesso... Ma voi chi siete? Chi siamo, secondo Luca te? Luca era chi gay? Ma adesso sta con Dudu con era gay? Ah, ma che cavolo, ma ti stavo ascoltando adesso, stavi dicendo un'altra cosa sulle nutri. Ma chi sono? Lo Zoo di 105, non è quest'ora. Ma che c'entra lo Zoo di 105 adesso? Vabbè, tu sei simile, però parli... Ma politica, sono simile, no? Un cazzo, scusa. Scusa, ti rispondo. Scusa, mica, no, che soffende, detto con tutto il rispetto, mia. Sono dei geni assoluti, però simile, un cazzo. Scusa, non ti offendere. In questo sono abbastanza signor simile. Povia. In questo signor sono abbastanza Povia simile. Ne ha scritta un'altra. Allora, grandissimo Povia, cosa hai scritto ieri? Cose sui terremoti. Ma è mai possibile che uno possa pensare che i terremoti sono provocati anche dal fatto che 7 miliardi. Cos'è che hai scritto esattamente? 7 miliardi di persone che si muovono nel pianeta? Provocano i terremoti. Ma scusa, ma cioè, visto che la scienza, a parte che la scienza non è, diciamo che non ha ancora dei campi vuoti, no? Sulla questione dell'argomento dei terremoti, sì. Allora questi campi vuoti o vengono riempiti dal silenzio, e gli italiani sono bravi nel silenzio, oppure vengono riempiti da domande, ipotesi anche bizzarre, come ho fatto io, visto che sono un ignorante che vuole imparare. No, beh, ho capito, però, caro Povia, uno non può dire che i terremoti sono provocati da 7 miliardi di persone che si muovono in contemporanea. Cioè il nostro... A parte che non l'ho detto in contemporanea, poi è una cosa che viene fuori da una domanda di un sostenitore che io ho rifatto, poi ho girato al pubblico di Facebook, che è fatto anche di geologi, laureandi. E che hanno detto questi? T'hanno spernacchiato? Beh, molti mi hanno insultato, facciamo le scurregge, eccetera, eccetera. Cioè, non è che intendevo dire che i cinesi, 1,5 miliardi di cinesi da una parte fanno un rotto e dall'altra parte creano lo tsunami. Però... Se andiamo a scoprire che il post parlava soprattutto dei terremoti artificiali, dove tutti, molti mi smentiscono e dicono no, i terremoti non si possono provocare artificialmente, invece nel 2006, 2009, no, sei diventato pure complottista. Quando le nutrie fanno... Guarda che bella, invece interessante sta cosa, voi mi prendete in giro, però nel 2006, 2009, 2013 la Corea del Nord ha fatto degli esperimenti nucleari che sono stati visti anche dai sismografi siciliani, quindi vuol dire che tutto è possibile. Adesso torniamo a quello che vuoi sentirti dire tu, che mi rompi sempre le palle. Io non la volevo fare sta telefonata, ma io faccio. Ti rompo le palle, io ti adoro, no? Ti rompo le palle, questo, ti adoro, ti rompo le palle. Questo è nuovo controordine mondiale. Cioè, com'è? Ma tu sei impazzito? Tu sei passato da Luca era gay al nuovo controordine mondiale. Ma è una roba pazzesca, c'è una trasformazione. Era già tutto scritto lì, Vabbè, pare. Allora, Luca era gay, ma adesso sta sempre con lei. La parentesi Parenzo andrebbe fatta con una trasmissione soltanto noi tre, però vabbè, è uno dei cantanti più reazionari. Aspetta, parla Bagatta. Il vero colpo di Povia, io ho un amico che vive per Povia, si chiama Max Minoia. Ma che vuol dire vive per Povia? Per la canzone del piccione. Ma io vivo per tutte le canzoni di Povia. Quella è bella. La canzone del piccione è molto. Adesso voi scherzate. Tranutri e piccioni. Poi posso chiedere poi se fa un pezzettino. Se no, ma lo fa subito. Bravo, Bagatta. Com'è Povia? Quella è il piccione. Quella è il piccione, che qui c'è qualcuno che gode. Più o meno come fa un piccione, e mica come le persone che a causa dei particolari mandano per aria sogni e grandi amori. Geniale. Io lo adoro quest'uomo, perché non c'ha la puzza non ha la puzza sotto il naso, dice un sacco di cazzate ogni tanto. Però Crucia, altro che cazzate. Tu prova a immaginarti un ipocentro di un chilometro e mezzo in piazza San Giovanni il 1° maggio con 800.000 persone che saltano durante il concerto. E che succede? Arriva il terremoto scaturito dalle cause che la scienza ha già detto, e questi 800.000 persone che saltano al 1° maggio con un ipocentro di 1.000 metri sotto, tanto no, il ipocentro succede? Da 0 a 700 km e non possono contribuire? Ma dai, era meglio Luca, devi provare. Provami che non possono contribuire. Ma come provami che non possono contribuire? Oh, ragazzi, in Russia riscaldano i palazzetti dello sport con 20.000 persone che dopo un po', a forza di fiatare, fare tutto quello che fanno, cioè non riscaldano il palazzetto per risparmiare, dopo che ha messo 20.000 persone, dopo mezz'ora il palazzetto ha un clima dove... Vabbè, ho capito, ma qui è provato, perché succede. Lì è provato il fatto che qualcosa si riscalda. Ma dai, su. No, non è vero. Per esempio, Stefano Gresta, che è il presidente dell'INGV, che è l'Istituto Nazionale della Geofisica e Vulcanologia, ha detto che ci sono, cioè che è possibile che ci siano i terremoti artificiali che potrebbero... Ma non perché che vanno a chilometri di distanza. Detto questo, tornando alla cazzata che dite voi, che è giustamente anche una provocazione, dei 7 miliardi di persone che si muovono, però se ci sono gli esperimenti sotto e un migliaio di persone comincia a trivellare sotto, piano piano, stuzzichi, petting, arriva l'orgasmo, la dico così almeno è più facile. Com'è, scusa, la capiscono Giuseppe, tutti. Giuseppe, com'è, possiamo rifare Luca era gay con Dudu era gay? Ma adesso sta con lei. Come farebbe? Beh, è arrivata la Pascale. Ma Dudu chi è? Il cane di Berlusca, una ragazza? Sì. Cane di Berlusca. No, di Berlusconi. Ah, il cane di Bella. Dudu era gay e adesso sta con sei. Dudu parla con il cuore in mano. Dovevo fare una rima con cane, però era brutto perché mi veniva infame. Ciao, che troppo, caro, ti abbraccio. Punta. Ciao, presto. Ciao. Non ciao, basta con queste cazzate sul terremoto. Ciao. Sono come zanzare. Ecco qua. Queste ombre. Bruno da Milano. Anzi, no, voglio sentire Elio da Milano. Elio. Buonasera, Cruciani. Oh, ma aspetta un attimo, Elio, che ti faccio conoscere una persona che conosce sicuramente anche anche Guido. Ma tu te la ricordi la mitologica Jessica Rizzo? Come no? Beh, quanti film hai visto già Rizzo? No, sono diventato... Sì, ho problemi di vista anche. Adesso dici? No, ai tempi. Ai tempi ti sono... Assolutamente sì. Assolutamente sì. No, Jessica Rizzo ha fatto parte di... Della un tua... periodo, sì, un paio d'anni della mia vita sono stati trascorsi insieme a lei e anche altre sue amiche. Ma ha girato 200 film, i porno adesso fatti in casa. Adesso quanti anni avrà? Che ne so, boh, Jessica, quanti anni hai adesso? Scusa se te lo chiedo, Sì, guarda, ne ho 47. Beh, ho cominciato da giovane nel 91. Fai il conto quanti anni avevo quando ho cominciato. Ma sei Jessica, Jessica, sei per Cruciani va benissimo ancora. Ma eh? Tu per me, per esempio, vai ottimanti. Forse pure troppo giovane. No, infatti, stavo per dirlo io. Meno male che però te la sei detta tu. Esperienza. No, ma non è questione di esperienza, è questione... Guarda, se la vita comincia a 40 anni, io ho soltanto 7 anni. Senti, ma adesso che fai? Innanzitutto sei ingrassata oppure sei sempre stata un po' rotondetta, no? Ma io ho sempre con le tette grosse, culo grosso. Pure, ma adesso ancora sono di più? Sono sempre stata formosa, mai anoressica. Ma adesso ancora di più, ma che fai nella vita? Che faccio nella vita? Allora, nella vita dopo 250 film... Mamma mia, 250, com'è che non ti sei ammalata? Scusa, no, perché no, ti tocca... No, anzi più sesso fai e più ti viene voglia di farlo. No, ma non ti sei ammalata, com'è che non ti è venuta nessuna... Sono diventata ninfomane, sì, mi sono ammalata di sesso. Sei ninfomane, va bene. Sono ninfomane. È cambiata l'espressione di Cruciani su questa frase. È cambiato completamente. No, per carità. Ma ha cambiato aspetto. È un muscolo, quindi più lo alleni, più ti hai voglia di farlo. Adesso questo, anche questo, sì, certo, c'è sempre alla radio di Confindustria, sempre. Siamo qui. Scusi, signora, signora Rizzo. Quanti film ha fatto? Ha detto 200? 250. Perché cazzo, più di Michelangelo Antonioni. Ma perché male c'è, scusa, Perché male c'è? Stai condannando la pornografia? Più di Mastroianni. Stai condannando la pornografia, dimmelo subito. Non mi ricordo le storie del film. Però mi sono divertita tanto. Beh, no, questo... le storie non me le ricordo neanche io, ecco, però le dimensioni tante. Scusi, signora Rizzo, ma lei ha mai avuto politici che si sono appassionati alla sua persona, che le hanno chiesto di fare all'amore? Guarda, non potrei dirlo comunque, anche se qualcuno è venuto anche nel club, però non... Quale non club? Ah, perché lei adesso ha un suo locale, Vabbè, ma non c'è niente di male, può tranquillamente dirlo. È il mondo di Atlantis, un club per coppie e per singoli molto trasgressivo. Scusi un attimo, ma vorrei dire una cosa. Il suo politico preferito da quel punto di vista, chi è stato nel corso della sua carriera? No, io non posso. C'è quello che lei dire... ha sempre immaginato come un sex symbol che poteva fare un film con lei, eccetera, eccetera. Chi è stato? Ma guarda, un sex symbol. Allora, se tu mi dici fisicamente, politico. Fisicamente ci sono delle persone che mi piacciono molto di più. Però io siccome guardo anche molto all'intelligenza, non c'è dubbio. L'intelligenza. Ma quale intelligenza? Ma dai, su. Ma sì, come ma no, quale anche quella io sono anche molto cerebrale, quindi certo. Stiamo parlando anche... di legge elettorale. Si è appassionata di Italicum, Jessica? Ti piace? Sono appassionata? Della legge elettorale, sai cos'è l'Italicum? È una marca di preservativi, la Italicum. Beh, quelli servono. Quelli servono sempre. Quelli naturalmente servono sempre. Ma sai che cos'è l'Italicum? No. Non lo sai, E non, che te, non te ne può fregare di meno dell'Italicum. Che cos'è? No, ma è la legge che propone Renzi per cambiare il modo in cui si eleggono i deputati e i senatori. Capito? Ah, ok. Non ne no, sai nulla. Non ne sai, non te ne frega nulla. Diciamo. No, non me ne frega nulla anche perché penso ad altre cose. Hai altri problemi, le tasse. Sì, i locali da aprire, gli spettacoli hard da fare, gestire il locale. Però vedi il mondo reale. Beh, caro. Ma le tasse penso che ce l'abbiamo un po' tutti. Non c'è dubbio. Un attimo, fa ancora Jessica. Sì, fa ancora spettacoli, certo. Come no? Elio da Milano, Elio. Eccomi, buonasera di nuovo. Autista? Allora, camionista? Camionista all'appello. Allora? Allora, volevo raccontare non solo delle piazzole che ormai ne abbiamo sentite di cotte di crude, ma non so se avete provato a fermarvi all'autogrill. Sì. Siete praticamente scortati fino dentro il bagno e guai a provare a mettersi sulle tazze in piedi. Vabbè, ma non esageriamo, mi sono fermato mille volte all'autogrill, non è successo niente, dai, su. Ci sono i poliziotti, di notte ci sono i poliziotti. Non camion, probabilmente, Cruciani. No, Elio, scusami, a che ora? Alle 4 di mattina in qualche autogrill particolare? Qui Bagatta è un esperto di trasferimenti macchina in tutti i dati. Allora, questa cosa di dire che è omofobia, questa gente qua è malata. Ma chi questa gente? Chi? Si spogliano davanti alle persone. Ma dai Elio, su, ma non è possibile questa cosa. Te lo giuro Giuseppe, te lo giuro, ma... devi salire con me, mandami Mandami Parenzo qua. Ma anche giorno. No, grazie. Guarda, Parenzo, io Parenzo, tra un camogli, tra un camogli e l'altro. Ti faccio vedere che dito facciamo. Ma io non capisco Parenzo perché non vuole fare però questi grandi reportage. Mi fido della testimonianza. No, ma non capisco, io ti ho invitato. Parenzo, per amore, te lo do lo schiaffo. Mi fido, caro Elio, della sua testimonianza. No, però scusa, perché non vuoi fare questo grande reportage? Cioè, sui camion in giro per le piazzole di notte, poi passi una settimana così. Sai che divertimento una settimana così? Una cosa stupenda. Ma come no? Ma guarda che Bagatta, per esempio, lo farebbe subito. No, noi l'abbiamo fatto, non su questo argomento, sui camion americani per una settimana, sui truck, e dietro c'è un vero e proprio appartamento. I camionisti dietro hanno una casa vera e propria nei camion moderni. Quindi in realtà ci starebbe telecamera nascosta e vedere cosa succede. Ma come no? Parenzo con un paio di baffi, occhiali, naso frinto, parrucca. Baffi, questo è bello, quello dei baffi è bello. Elio, baffi perché le fanno schifo i froci, cioè gli omosessuali, scusate? Allora, il discorso è che non hanno rispetto per le persone, non guardano. Io porto mio figlio che ha 10 anni e mi trovo questo che mi si affianca col pisello di fuori. Io cosa devo fare con un camion di 16 metri se non schiacciarlo contro un muro? Ma no, Elio, ma su, dice? Ma che come no, dai Giuseppe, io voglio vedere te al posto mio. Ma io però ho viaggiato un sacco di volte di notte, perché da non faccio il camionista, e non è che ho visto queste torme, queste no, questa massa di omosessuali addirittura con l'organo sessuale fuori che ti avvicinano e ti accostano sull'autostrada per cercare di fare sesso con te. Dai, non esageriamo, Elio, su. Guarda, te lo posso giurare su tutto quello che vuoi, ma chiedi ai miei colleghi cosa succede di notte, di giorno, non c'è. Jessica, tu pratichi i camionisti? No, io no, non ho tempo di praticarli, però so che comunque sono molto gettonati. Tra perché chi? Tra passano chi? Tante ore in macchina e poi giustamente fanno un lavoro più, diciamo. Ma gettonati di forza, tra chi? No? Gettonati tra chi? Tra... E tra le coppie, sì, perché si sa che coppie, insomma, il camionista è la persona all'arrabbiato. È una la fantasia, persona... è una fantasia. Il maschione della situazione. Va bene, grazie. Chiudiamo così, signori miei. Fratelli d'Italia di La Russa fa due grandi acquisti. Senti Parenzo, senti sta roba, eh. La Russa ci informa che hanno fatto due grandissimi acquisti. C'è da ridere. E noi abbiamo allargato l'area, e le dico già adesso ci sono altri soggetti. C'è l'ex ministro Terzi di Sant'Agata, quello che si dimise per la vicenda dei Marò. Quello esatto, perché i Marò vennero rimandati. C'è Ciocchetti che è un cattolico, Magdi Allam, l'ex ministro Guidi, potrei continuare. Allora, grandi acquisti. Anche, Terzi, anche Naigolan, pare. Terzi di Sant'Agata, l'ex, lo so, Ciocchetti, e Magdi poi chi era? Allam, e Magdi Allam. Magdi, sì, però è intervenuto Toir che annulla tutto e rimanda tutto a capo. E infatti Marotta si è molto arrabbiato per gli acquisti. Gli acquisti di Russa. Fratelli d'Italia. A domani 18:30. Ciao Guido. Arrivederci. Amore. Cattivone. No, ma non sei cattivone, sei cattivissimo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Mi raccomando, non rompe i coglioni. Radio 24. La passione si sente.